Eccoci, torniamo in diretta, questo è Atti e Misfatti e dunque come promesso andiamo a fare un resoconto della mobilitazione che si è tenuta il 18 all'Aquila, giovedì 18, una mobilitazione, lo ricorderete, ne abbiamo parlato molto e anche la radio ha seguito quella stessa mattinata, una mobilitazione in occasione della prima udienza del processo al militare Francesco Tuccia, militare in stanza all'Aquila per l'operazione Strade Sicure, ha stuprato, ridotto in fin di vita una giovane donna nel febbraio di quest'anno, una ragazza veramente, diciamo, insomma, anche veramente molto molto coraggiosa che insomma si trova in questi mesi chiaramente ad affrontare sia le conseguenze fisiche che psicologiche della sua, di questo terribile aggressione, stupro e tentato appunto omicidio, e che comunque si è presentata in aula al processo, ha rifiutato anche di che le venisse messa una tenda intorno per proteggerla, diciamo così, dagli sguardi sia dei appunto delle persone presenti, dei giudici, anche dei giornalisti che soprattutto all'inizio del processo erano come sempre ampiamente presenti. Lei ha rifiutato appunto questo dicendo che non è lei che si deve vergognare a guardare in faccia Francesco Tuccia per primo, ma anche tutti i testimoni che porterà a suo favore. Si è tenuta comunque questa prima udienza, magari parliamo velocemente di cosa è successo dentro l'aula e poi ci spostiamo fuori dove era in corso una mobilitazione di donne femministe e lesbiche. Dentro l'aula, vabbè, la cosa importante da dire è che il centro antiviolenza dell'Aquila ha ottenuto la costituzione di parte civile e il processo è stato decretato, non so come si dice, insomma, comunque a porte chiuse, per cui la ragazza si sarebbe trovata da sola con il suo avvocato e da sola davanti al suo stupratore e anche a eventuali testimoni che stanno lì per difenderlo, e quindi riteniamo che sia molto importante, insomma, avere anche dentro l'aula la presenza, il supporto, il sostegno delle compagne del centro antiviolenza. In più è una cosa rarissima, diciamo che è successa pochissime volte nella storia d'Italia, per pochissime intendiamo non più di 5, quindi insomma, per dare un'idea dell'importanza di questa riuscita, insomma, di costituzione parte civile, forse ancora più importante in una città come l'Aquila, dove la cittadinanza poi di fatto è stata completamente e militaristicamente privata di insomma, possibilità anche di autodeterminare il proprio recupero, insomma, ecco, del territorio e delle loro vite, insomma, quindi una cosa importante che sicuramente le compagne del centro antiviolenza dell'Aquila ovviamente hanno accolto benissimo, sono state anche, diciamolo, molto molto brave a insomma prepararsi per questa costituzione di parte civile. E quindi all'interno dell'aula quello che è successo è che appunto in un processo a porte chiuse, soprattutto per l'assalto dei giornalisti, lei si è ritrovata insomma con le compagne del centro, sono stati ascoltati per questa prima udienza alcuni testimoni, insomma, del ritrovamento, diciamo così, della ragazza, quindi principalmente periti, il medico e carabinieri che l'avevano poi, insomma, portata e scortata all'ospedale al momento del suo ritrovamento. La prossima udienza sarà il 19 novembre e riteniamo che la presenza delle compagne là fuori sia stata abbastanza fondamentale anche per il vissuto di questa ragazza, perché forse non è facile immaginare, ma insomma l'Aquila è una città che non esiste nei fatti, cioè il centro storico non esiste della... più, una volta esisteva magari, esatto, non esiste più adesso nei fatti, e quindi è tutte le istituzioni piuttosto che gli uffici, così come ovviamente le case, i luoghi di ritrovo sono stati spostati fuori, è una città completamente dislocata, quindi il tribunale si trovava all'interno di una vecchia, di una caserma della finanza, poi immaginiamoci. Su una statale isolata in mezzo a un centro industriale, quindi quindi non raggiungibile. Nulla, esatto, difficilmente raggiungibile. Poi passavano soltanto persone o che andavano appunto in questi camion che portavano cose nel centro industriale, militari perché passano in tutte le strade dell'Aquila, e poi persone che andavano e venivano dal tribunale, che comunque è un prefabbricato che si trova ospitato lì nel cortile. C'è quest'aula proprio appunto strutturata da un prefabbricato di lamiere, e quindi insomma ovviamente tutto ciò presidiato come qualsiasi altro luogo dell'Aquila dai militari. Quindi nei fatti questa ragazza si è ritrovata in un contesto in cui intorno a, tra l'altro, liberi e con le armi spianate e a vigilare i luoghi, c'erano proprio gli amici insomma di quel Francesco Tuccia, che è oggi l'unico accusato di questo tentato omicidio e stupro appunto. Per cui insomma, a maggior ragione e forse più di altre volte in quel contesto, la presenza delle compagne che hanno anche diciamo così un po' circondato i familiari della ragazza, perché altrimenti essendo a porte chiuse questi stavano fuori veramente gomito a gomito con i militari amici dello stupratore, e quindi è stato insomma diciamo una buona cosa essere in tante presenti. Eravamo una sessantina più o meno, c'erano ovviamente le compagne del centro antiviolenza dell'Aquila, c'erano compagne femministe e lesbiche di Roma, Bologna e Firenze, c'erano anche questa associazione che si chiama Rete Rosa, un gruppo di donne di Tivoli, che si è costituito proprio dopo questa dopo questo stupro. Sì, esattamente. E poi c'era un collettivo misto fuori genere che fa riferimento al comitato 332 a livello locale. E gli striscioni con cui noi diciamo siamo scese davanti al tribunale erano uno recitava "La violenza degli uomini ci riguarda tutte", poi "Con o senza divisa guai a chi ci tocca", un altro striscione diceva "Per ogni stupratore con o senza divisa vita breve e sofferta". Poi c'erano anche delle sì, carino, mi fa sempre tanto ridere sì, questo sì, scusate del resto cioè si deve anche un po' insomma sfogare così. E poi altri cartelli: "La violenza degli uomini sulle donne ci riguarda tutte", "Per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa", questo è stato anche uno slogan insomma gridato ovviamente. Poi cartelli che dicevano "Sì uguale sì, no uguale no", perché insomma stiamo anche a sti livelli, sì, bisogna siamo cercare anche, sì, sì, di spiegare proprio le basi e il relazioni fondamento binarie. Altro cartello diceva "Il mio vestito non è un invito", altri dicevano "Tu donna non provar vergogna", "L'alibi dello stupratore è solo menzogna", insomma è stato circondato quel recinto poi di filo spinato che circondava il perimetro del tribunale con tutti questi cartelli. In contemporanea c'erano anche quella giornata, insomma lo diciamo, altre iniziative nel resto d'Italia, anche in altre città, a Bologna, a Torino, a Palermo, ora francamente non mi ricordo, tanto a Taranto, ecco, anche a Taranto, insomma volantinaggi o presidi che si sono tenuti sempre in occasione di questo 18 ottobre, appunto prima udienza del processo a Tuccia. La giornata, vuoi dire qualcosa? No, sto passando, no, perché c'ho i punti, quindi mi è facile, vai. Però c'hai ragione. Sei più che esaustiva. No, vai. Ci sarà sempre qualcosa da aggiungere. Poi parliamo magari anche del lavoro radiofonico che c'è stato dietro, diciamo, seguire questa giornata. E vabbè, il presidio si è svolto là sotto, è durato tutto il tempo in cui è durata anche l'udienza, quindi fino alle 14 circa. Che dire, erano ovviamente molti discorsi che sono stati fatti. C'è stata poi dopo le 14 anche un'assemblea, abbiamo tenuto lì proprio lì fuori un'assemblea di donne sul finire del sit-in, in cui appunto si è parlato delle strade pattugliate rinviate dai militari e quindi di quale sicurezza si parla. Poi, così detto per inciso, subito dopo questo fatto le donne del PD dell'Aquila hanno avuto la geniale intuizione di chiedere ancora più sorveglianti, come se ancora fosse... più militari dentro la città. Quindi insomma, diciamo, non è affatto scontato che, ecco, qualcuna a questo punto dica che questi militari non sono affatto per niente garanzia. No, perché non si tratta di mele marce, ma è un'istituzione che agisce proprio in questo modo, e quindi non si tratta né di carabinieri buoni, carabinieri cattivi, militari buoni o militari cattivi. Eh sì, e poi i privilegi di cui godono, l'impunità di cui godono, che poi in parte è la stessa di cui godono tutti gli uomini violenti, insomma, però ovviamente i militari hanno, diciamo, una spessore da questo punto di vista particolare, motivo in più per sostenere questa giovane donna, insomma, durante il suo processo, che speriamo non sia lunghissimo, insomma, che si concluda in una... poche udienze, insomma, ma questo ovviamente... Sì, perché poi in realtà stare lì quella mattina è stato veramente molto sgradevole, uso un eufemismo, nel senso, noi siamo già andate in altre occasioni a sostenere donne che hanno subito violenza, e però questo processo in particolare era duro stare là fuori anche per noi. Era duro mantenere anche, non so, a parte una tranquillità o forse... Una calma apparente. Una calma, sì, apparente. Comunque era una situazione di guerra, sembrava di stare in una situazione di guerra piena di militari, con camionette blindati che passavano avanti e dietro, militari che ti facevano entrare dentro, sì, dentro il tribunale. Una situazione in cui particolarmente la presenza delle altre donne è stata importante, come dicevi tu prima. Eh sì, no, perché effettivamente poi una forse non immagina, ma veramente l'Aquila è ogni angolo, hai una camionetta e gli uomini in armi, insomma, per cui ovviamente parliamo di commilitoni, di questo Francesco Tuccia, quindi ci possiamo immaginare, insomma, gli sguardi, i modi, anche gli atteggiamenti che assumevano. Le battute, i ridacchiamenti, cioè non appunto. È una situazione facile da sostenere neanche per chi sta fuori, cioè. Ma non voglio neanche paragonare, però neanche no, per chi sta fuori, insomma. Diciamo che essendoci dentro la vicenda ovviamente umana di una donna direttamente coinvolta, siamo cadute in provocazione e la cosa è andata più che liscia. C'è stata appunto sul finire del sit-in anche un'assemblea anche interessante, in cui insomma si è fatto un po' un primo giro di presentazioni delle realtà presenti che abbiamo citato anche prima. È stato ricordato da una donna dell'UDI di Napoli che il giorno dopo, il 19 ottobre, era attesa la sentenza per il femminicidio di Fiorinda Di Martino da parte di Valboa, il suo uccisore, insomma. E poi anche un intervento di cui vogliamo, insomma, ricordare, e anche per noi è stata molto importante questa partecipazione di una... scusate ma mi sfugge il nome, Bodina mi vedrà in aiuto, di una giornalista egiziana, è stata qui a Roma, ne abbiamo parlato. Sì, di adesso Rasha, troviamo, che ha fatto sì, esatto, Rasha era lì presente con noi, è stato molto importante perché lei ha anche una storia, insomma, è una pratica, diciamo, ai noi di antimilitarismo, ha raccontato appunto delle piazze egiziane, ha raccontato delle violenze dei militari contro le donne, ha parlato dei test di verginità, motivo per cui lei stessa è stata, insomma, diciamo, arrestata e perseguitata per averne scritto in quanto giornalista. Insomma, quindi è stato uno scambio importante, insomma, proprio in quel contesto in particolar modo. E poi, insomma, sostanzialmente ci siamo traghettate un po' tutte insieme verso l'idea di fare proseguire questo tipo di mobilitazioni, di fare anche una mobilitazione nazionale per il 25 novembre, a partire da quella che appunto è stata l'assemblea là fuori dal Tribunale dell'Aquila. Ci siamo date un appuntamento qui a Roma per una assemblea nazionale per costruire appunto tutte quante insieme questo 25 novembre. Una delle città proposte ovviamente è L'Aquila, ma insomma sono decisioni che verranno prese congiuntamente nell'assemblea. L'assemblea è a Roma il 28 ottobre. Questa domenica. Rendiamo conto che i tempi sono un po' stretti, ma purtroppo insomma i tempi del processo sono stati un po' quelli, e quindi ci siamo ritrovate insieme la voglia di ritornare, soprattutto di mobilitarci per la giornata contro la violenza mondiale degli uomini sulle donne, ci ha fatto cercare di sbrigarci e quindi cercare di organizzare questa giornata tutte insieme. Sì, infatti, intanto per capire se c'è questa volontà o come è stata espressa da quelle presenti all'Aquila, oppure insomma anche articolarla in vari modi, non sappiamo come. L'assemblea si terrà il 28 ottobre dalle 11 circa di mattina fino alle 17 del pomeriggio, molto molto probabilmente alla Casa Internazionale delle Donne, ma girerà una comunicazione, quindi occhio alla mail, alle liste o anche al nostro blog mfla.noblogs.org, dove pubblicheremo nelle prossime ore il luogo preciso, insomma. Che altro dire? Parliamo anche della conduzione della conduzione radiofonica, perché ci teniamo, insomma, anche un lavoro che il martedì ha fatto insieme, per cui insomma il collettivo Medea, che ha uno spazio radiofonico fisso a Radio Blackout, ci ha contattato insomma per proporci una conduzione insomma che parlasse del femminismo e dell'antimilitarismo e di come appunto le violenze dei militari in particolare contro le donne difficili da intercettare, perché sono molto meno ovviamente le denunce al riguardo. Ci sono stati tanti interventi con la mattinata, questi sono audio che potete recuperare dal sito delle stesse compagne di Medea. E c'è stato tra l'altro un collegamento molto interessante che vi invito ad ascoltare con le donne della Valsusa, che tra l'altro stanno organizzando il 17 e il 18 una o due giorni proprio su in valle a novembre. Infatti, sì, nostra intenzione è proprio la prossima settimana chiamarle, farci raccontare com'è, cercare anche un po' di organizzarci per noi salire. Ci vorremmo andare, sì. Ovviamente. Sì, infatti, la mattinata è stata, diciamo, anche mandata in streaming da Onda Rossa per accordi ovviamente presi, per cui è stato anche importante, secondo noi, che in due poli diversi, diciamo due città diverse d'Italia, andasse in onda la stessa, le stesse, insomma, mettiamola così, riflessioni. Il blog di Medea, dove per ora potete trovare la trasmissione, è medea.noblogs.org. Poi a breve anche su Radio Blackout sicuramente verranno pubblicati gli audio, insomma, di una mattinata interessante, perché loro da studio ovviamente sono riuscite a legare bene tanti discorsi, a dargli soprattutto una visibilità. Ok, quindi ricordiamo l'appuntamento del 28 ottobre, Assemblea Nazionale a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, da confermare molto probabilmente dalle 11 alle 17. Me posso fermare. Direi che abbiamo esaurito l'argomento. Dato.